Volevo chiedere a Daniele, dice Gilles Clément, il sentimento di appartenenza al mondo non potrebbe mai coincidere con il desiderio di dominarlo. Sta parlando di un giardino, forse potrebbe parlare anche di un vigneto, forse. Ma sì, io credo che in realtà vedo molto il nostro ruolo di vignaioli o di chiunque provi a coltivare o a fare qualcosa in un rapporto diretto con la terra come un ruolo di testimonianza quasi, di interpretazione di una condizione cui noi dobbiamo portare il massimo rispetto. Noi siamo in un luogo specifico, sono luoghi molto diversi, immagino Masserano, in provincia di Nese, Biella. noi siamo a Masserano che è diciamo nell'Alto Piemonte, ai piedi delle montagne, in direzione del Lago Maggiore, diciamo. È molto diverso da Chianciano e credo assomigli di più alla zona del Prosecco, ma ogni luogo ha fortissima una specificità. E tutti noi dovremmo sentire una grande appartenenza al luogo che più ci è vicino per riuscire ad appartenere fortemente al pianeta e rispettarlo al massimo. E secondo me, in quanto vignaiolo, in quanto coltivatore, anche chi fa un orto, come diceva il figlio della signora, così, in realtà è semplicemente in un luogo e in un tempo specifico. E dovremmo abbassare di molto il nostro orgoglio personale, renderci conto che possiamo fare pochissimo, tutti gli interventi che facciamo tendono verso il disequilibrio e quindi forse il nostro lavoro è molto più facile di quello che vorremmo raccontarci ed è semplicemente un metterci a disposizione delle stagioni, del tempo a cui siamo dedicati e viceversa, perché noi apparteniamo a un luogo e quel luogo, insomma, e apparteniamo a un luogo e anche quel luogo appartiene a noi nel momento in cui noi ci diamo attenzione, non è questione di proprietà, è questione di affetto, è questione di mettere noi stessi a confronto con una stagione, con una vigna ed allo stesso modo dovrebbe essere così con tutti gli altri ambienti che frequentiamo. Nel momento in cui proviamo affetto ed empatia per quello che abbiamo intorno e più vicino, automaticamente attraverso un'azione individuale non potremo che produrre del bene collettivo. Nel momento in cui la nostra pratica individuale, il nostro pensiero singolo tende al meglio, non può che tutto quanto andare in una direzione più costruttiva, di maggiore equilibrio, di maggiore armonia. E il bene collettivo, secondo me, si costruisce attraverso una maggiore consapevolezza, una conoscenza personale più alta. Poi ognuno può prendere una strada diversa, non esiste nessuna ricetta, io sono contrario a qualsiasi dogma, non credo ci sia un modo giusto e un modo sbagliato di fare le cose. Ma quando sentiamo davvero di fare qualcosa e sappiamo perché lo facciamo, quando lo facciamo con un'intenzione forte, secondo me andiamo nella direzione giusta. Bene.